Sia Tacito che Seneca fanno il nome di Apicio, lo tramandano ai posteri come il ricco crapulone, dissipatore di favolose sostanze, che almeno a sentire Seneca si sarebbe suicidato addirittura per paura di una miseria, ecco, che comunque, ricco com'era, gli sarebbe stato anche difficile raggiungere. Ad un Marco Gavio, detto per l'appunto Apicio, ad un Marco Gavio vissuto ai tempi di Tiberio, dobbiamo anche, pare, un trattato sull'arte di cucinare, in cui si può reperire una curiosa ricetta. Come far diventare bianchi i vini rossi. Mettete nel vino, in quello rosso ovviamente, mettete nel vino della farina di fagioli, oppure 3 chiare d'uovo, e mescolate molto a lungo, dice Apicio, che evidentemente fra crapula e crapula era animato anche da spirito scientifico. Mescolate molto a lungo, il giorno dopo il vino sarà bianco. Al di là delle competenze chimiche di Apicio, l'oliva dice non ci provate, la scienza odierna disegna con discreta precisione il confine fra vini rossi e vini bianchi. Questi ultimi conterrebbero meno sostanze fenoliche e aromatiche estratte dalle bucce e risulterebbero più acidi. Ecco perché in tavola lì si associa alle portate di pesce, ed ecco perché preferibilmente li si serve freddi, perché acidità e calore non sembrano proprio fatti per il nostro palato. Si suol dire che nell'ultima cena Gesù istituisca l'Eucaristia. Lui si era limitato a prendere un pezzo di pane, a spezzettarlo e a distribuirlo agli amici, facendo poi girare il calice del vino. Le parole con cui aveva accompagnato i suoi gesti sono più o meno note. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, riferendosi al pane. Poi bevete tutti quanti, bando agli astemi, questo è il mio sangue. E nonostante la distinzione tra corpo e sangue lasci perplessi, queste sue operazioni, eseguite una volta, ben presto, forse per ottemperare meglio quel suo desiderio di essere ricordato, queste operazioni furono ripetute, divenendo, almeno dal secondo secolo dopo la sua morte, un rituale costitutivo di quella pratica cristiana che, non accontentandosi del valore simbolico, ha speculato filosoficamente sul verbo essere fino ad imporre come dogma l'identità di pane e vino da una parte e corpo di Gesù Cristo dall'altra. Anche il fatto che Eucaristia significhi rendimento di grazie e non promemoria dovrebbe far riflettere sul meccanismo poco chiaro dell'istituzione, perché un conto è ringraziare Dio e tutt'altro conto è inventare una stratagemma per essere ricordato. Ma per lo più l'attenzione dei pensatori cattolici si è focalizzata su tutt'altro genere di problemi. Fra questi il dilemma relativo al colore del vino. Se Gesù ha detto che quello era il suo sangue, nel calice, occhio e croce, più croce che occhio dato il contesto, ben difficilmente nel calice avrebbe potuto esserci del vermentino o del chardonnay, molto più probabile che ci fosse un barbera o un sangiovese. La metaforizzazione del vino in sangue, ecco, quando la usa Gesù, ha già una storia. A quanto pare è già nel Deuteronomio, perché dice nel Cantico di Mosè, in 32:14, si dice che è il sangue dell'uva che gli diede da bere il vino. E che Gesù passi agli amici del vino rosso parrebbe in dubbio. Il rituale della cena pasquale ebraica infatti prevedeva come obbligatorio l'uso del vino rosso. Sant'Ambrogio poi parla esplicitamente del simbolo del sangue che ciascuno di noi dovrebbe imparare a bere affinché non si provi poi disgusto del sangue che cola. Soltanto così la redenzione, a suo avviso, potrà produrre i suoi benefici effetti. San Giovanni Crisostomo, che è suo contemporaneo, perfeziona il concetto e anticipa in qualche modo la prova del palloncino. Dice, se il demonio ti vedesse tornare dal banchetto del Signore, ecco, più o meno dice così, e tu gli mostrassi la lingua colorata del prezioso sangue, se gli facessi vedere la tua bocca imporporata, lui, il demonio, se la darebbe a gambe come un animale impaurito. Allora, il vino della messa è rosso o bianco? Sul rosso non dovrebbero esserci dubbi, ma ovviamente fatto sta che è bianco. Già San Tommaso d'Aquino, in proposito, aveva cominciato a calare le braghe, dicendo che alla fin della fiera la differenza che contava davvero non era quella tra il vino bianco e il vino rosso, ma era quella fra pane azimo e pane lievitato. E presumibilmente, come nel caso di ogni buona regola che non si rispetti, anche questa cominciò ad essere trasgredita più o meno di necessità. Tuttavia, la svolta normativa si ebbe nel 1565 con quel poco stinco di santo di Carlo Borromeo, che fu mosso da una severa preoccupazione relativa all'igiene. Ornamenti e strumenti dell'altare devono essere puri e puliti, dice il Borromeo, soprattutto i corporali e i purificatoi. Ed essendo i purificatoi quei fazzoletti di tela che per l'appunto servono per esempio alla pulizia del calice, ne consegue che i preti dovranno utilizzare soltanto vino bianco per il sacrificio della messa. Non ringrazierò mai abbastanza il giorno in cui lessi Lo sporco di Giuseppe Vaccarino. Come ho già avuto più volte l'occasione di ricordare, si tratta di un racconto antifilosofico ordito a dimostrare che lo sporco non è da intendersi come qualcosa di empirico, bensì come una categoria mentale. La stessa deliziosa pennetta alla contadina che, prendendola dal piatto che ho davanti, mi pregusto infilzandola sulla forchetta, se la ritrovassi 10 centimetri più in là, per esempio sulla tovaglia, ecco che diventa irrimediabilmente sporco, una categoria dello spirito che mi fa perdere l'appetito. Una sana consapevolezza delle proprie operazioni mentali può preservare da simili errori. A maggior ragione il contenuto empirico dello sporco dovrebbe svanire allorché si parla di qualcosa che prima è passata attraverso lo stadio di simbolo per poi addirittura risostanziarsi come presenza reale del simbolizzato. Se il motivo per cui si deve preferire il vino bianco al vino rosso nell'officiare la messa è quello della pulizia, va da sé che la categoria di sporco venga applicata al sangue stesso di Gesù Cristo, il che almeno ad un profano sembra ideologicamente contraddittorio, ovvero da altri punti di vista irrimediabilmente blasfemo. Non era più sufficiente far aprire la bocca ai fedeli. Ecco perché il demonio ha favorito l'istituzione della prova del palloncino. Che sono su Gavi?